Italia in controluce. Buon pomeriggio, oggi è il 4 febbraio, la seconda edizione Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24, il quotidiano con un taglio di magazine sulla cronaca italiana, sulla politica nelle città, ma anche sui casi di nera e giudiziaria, vecchi e nuovi, le curiosità, il costume, lo spettacolo, la cultura. Buongiorno a tutti, da Daniele Biacchessi. La prima traccia è il consueto appuntamento del venerdì a quest'ora con Scuola in controluce di Piera Ceci. Scuola in controluce. Era oggetto di stupore e di stupore costante, poiché gli anni passavano senza apportare il benché minimo miglioramento nel mio stato di ebetudine scolastica. Mi cadono le braccia. Non posso capacitarmi. Sono per me esclamazioni familiari, associate a sguardi adulti in cui colgo un abisso di incredulità scavato dalla mia incapacità di assimilare alcunché. A quanto pareva, tutti capivano più in fretta di me, ma sei proprio duro di comprendonio. Così scrive Daniel Pennac nel suo diario di scuola, qui recitato da Stefano Benni, descrivendo la sua totale incapacità di stare al passo con i compagni, di capire anche solo di cosa si parlasse mentre era seduto al banco. Insomma, il suo totale fallimento scolastico, testimoniato dai voti orribili che campeggiano sulla pagella riportata sulla copertina del suo libro. Ora Pennac è diventato uno scrittore celebrato in tutto il mondo, tradotto in tante lingue, e da anni fa anche l'insegnante. Un insegnante che però non ha dimenticato cosa vuol dire vedersi affibbiato un 2, un 3... Cosa vuol dire veder concentrato in un voto scritto su un pezzo di carta il proprio fallimento? E allora Pennac, insieme ad altri intellettuali francesi, ha firmato una lettera per dire stop ai voti, almeno per i più piccoli. Meglio un giudizio più sfumato, dicono gli intellettuali francesi, e si chiedono in questi giorni genitori, insegnanti ed esperti, proprio mentre vengono consegnate le pagelle. Francesca Altomare Lavizzari, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Milano. Non vedo quale sia la grande differenza tra una valutazione squisitamente docimologica e le altre che si esprimevano con un buono, un distinto, un discreto, cioè sostanzialmente non cambia. È importante che alla primaria abbiano mantenuto il giudizio globale, che è quello che manca nella secondaria di primo grado, ecco, per cui noi possiamo fare un quadro della situazione del bambino. Ecco, il giudizio è rimasto nella primaria, però è anche vero che di fatto poi fra i bambini, insomma, io ho preso 4, tu hai preso 5, a parte che 4 e 5 all'elementare. Dovrebbero insegnarglielo i genitori in primis, in seconda battuta i docenti, cioè noi lo facciamo che i voti non sono fatti né per entrare in una competizione, non ho capito perché il docimologico dovrebbe portare ad una maggiore competitività. Noi insegniamo che non c'è competizione perché non deve esistere, volgare secondo me, e poi il voto è un discorso tuo, personale, e poi io sono una preside che distribuisce le schede di valutazione ad ogni bambino, quindi mi faccio a distribuzione quasi 800 ragazzi ed insegno loro sempre di non confrontarsi. E faccio anche il gioco dell'autovalutazione, molto spesso li chiamo e dico: secondo te cosa hai preso in storia, in geografia, capito? Loro sanno cosa hanno preso mediamente, e poi insegno che tutto nella vita si può comprare tranne che l'istruzione e la cultura. Anche se avessero una piccola sofferenza per un voto basso, e va bene, fa parte della vita. Basta che sia dato giustamente, ha capito? Non... In molte elementari, in molte scuole primarie, sì. Adesso le maestre hanno sostituito il voto proprio forse per non voler in qualche modo far vedere ai bambini se riescono o non riescono gli emoticon, i sorrisini, le stelline d'oro. Ceci, io sono stata una mia docente, molto brava tra l'altro, fu contestata perché anche noi anni fa avevamo adottato le faccine, e le faccine tristi mandavano in tilt i loro bambini. Quindi anche questo traumatizzava i bambini? Tutto traumatizza, quindi ti stiamo un pochino esagerando, forse dovremmo portarli da qualche altra parte del mondo. Alla mia maestra piace tanto Giovanotti, viene a scuola tutti i giorni per interrogarci. Sì, però non fa mica come gli altri, che si fa voti bassi o alti che siano, ai bambini non fanno bene, anche se non bisogna drammatizzare. Il pedagogista Benedetto Vertecchi. Ma io credo che la valutazione possa cominciare a assumere carattere comparativo quando c'è già stata un'esperienza culturale sufficientemente estesa. Quindi non al primaria? Non nell'istruzione primaria. Perché insomma per i bambini potrebbe essere difficile da comprendere. Sì, io non la vorrei neanche eccessivamente esagerare con cose tipo traume e così via. Insomma, siamo convissuti tutti, le persone della mia generazione prendendo voti, e non credo che siano rimasti traumatizzati per questo. E in alcuni casi non solo questione. I voti una volta si prendevano, ecco, anche le bacchettate. Ecco, c'era molto altro, c'era una immagine sociale diversa, e poi, se permette, c'era un aspetto fortemente diverso. Ossia, nella mia generazione ancora, ma credo anche per persone un po' più giovani di me, il successo scolastico era un fattore di ascesa sociale, di mobilità ascendente. Oggi credo che nessuno pensi più che questo meccanismo funzioni fin dalla scuola primaria. Allora, quel tipo di motivazione su cui facevano leva i voti non esiste più. Allora, il voto viene preso soltanto nella sua componente competitiva. Sono più bravo del compagno, sono meno bravo del compagno, quindi sono più figo, come dicono adesso i ragazzini, oppure sono un incapace. Quindi, insomma, lei mi sembra di capire che proprio questi voti li lascerebbe da parte, quantomeno nella primaria. Nella scuola primaria, sì. Io credo che invece gli insegnanti dovrebbero preoccuparsi di un tipo di valutazione che porta a migliorare la conoscenza degli alunni, ma proprio in vista della non utilità della valutazione di tipo comparativo. Voti dunque inutili alla scuola primaria, tanto che molti istituti hanno deciso di sostituirli, almeno in questo primo quadrimestre, con gli antichi giudizi, almeno in prima elementare. Alcune scuole infatti ne hanno dato proprio in questi giorni comunicazione ai genitori, mentre vengono consegnate mano a mano le pagelle. Luisa Ribolzi, docente di sociologia dell'educazione. Mi sembra che per un bambino piccolo un 4 sia più immediatamente un'etichetta che non un giudizio negativo, anche perché dovendo mettere nero su bianco, in genere gli insegnanti tendono a essere più caritatevoli, e quindi non l'equivalente di 4, che sarebbe una catastrofe, non vale niente, è pessimo, è difficile che venga espresso in queste parole. Quindi forse il voto rende il confronto un pochino più penalizzante. Ricordo che quando furono introdotti i giudizi, almeno per un certo tempo, quando i giudizi si consolidarono, i bambini tendevano a tradurre in giudizio i voti dei loro babbi e delle loro mamme, quindi avevano chiaro tutto sommato che c'era una gerarchia anche fra i giudizi, quindi non è così radicalmente diverso. Quando fu reintrodotto il voto si disse anche, è più chiaro, no? Il messaggio a chi questo voto lo prende, all'alunno ma anche alla famiglia. Sì, anche se probabilmente aiuta un pochino meno, sarebbe una valutazione più sfumata, dovrebbe contenere anche delle indicazioni su come, se è una valutazione negativa, se poi uno ha 9 il problema non si pone. Il voto negativo, se non viene in nessun modo accompagnato da una spiegazione da che cosa possa da cosa si può fare. Italia in controluce. C'è una sirena nei sogni di ogni uomo? Nel libro La versione di Barney, che è tanto piaciuto all'attore Luca Zingaretti, ce n'è una, Miriam, che appare all'improvviso in carne e ossa, innanzi a Barney e in La Sirena, il nuovo spettacolo teatrale che Zingaretti sta portando in questi giorni in tournée. Daniela Binelli lo ha intervistato. Ha mai visto una sirena? Sirena proprio no. Quelle con la coda di pesce, insomma, queste donne affascinanti. No, ho visto molte donne affascinanti che, ecco, ricordavano un po' quello che la figura mitologica della sirena un po' ci comunica, però sirene no, per fortuna devo dire, mi avrebbe spaventato. Cosa ne dice del lato romantico di Barney, nella versione di Barney, quando vede per la prima volta Miriam? Ma guardi, io il libro, la versione di Barney, l'ho adorato decisamente. Quando uno vuole bene a un personaggio, una persona in carne ed ossa, vuol dire che in qualche modo gli perdona anche i difetti. In questo senso mi sembra che c'è questa fascinazione, questo veramente coup de foudre, come credo a tutti noi piacerebbe provare. È stata una bella lettura, perché la versione di Barney? Perché è un libro straordinario. Quando c'è una letteratura così alta, non è che c'è un motivo, è proprio il piacere di leggere. Questo modo di descrivere così salientemente non solo Barney, ma tutti i personaggi che sono da contorno, devo dire, è propria come capacità dei grandi narratori. Tornando alla sua sirena, quella tratta da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, lei sarà 2 mesi in tournée da Cagliari a Milano, a Firenze, a Urbino. Chissà quante sirene verranno a vederla a teatro. Non lo so, a me piacerebbe più avere delle persone normali che non delle sirene. Ecco. Si tratta della storia che si articola su 2 sconosciuti che si incontrano in un caffè di Via Po a Torino. Sì, la storia è la storia di un'amicizia, quella che nasce tra 2 personaggi straordinariamente lontani, 1938 a Torino. Uno è un giovane giornalista della Stampa, originario della Sicilia, che è appena stato lasciato da 2 ragazze con cui tratteneva contemporaneamente una relazione, e allora un po' affaticato da queste vicende amorose decide di isolarsi un po' dalla mondanità e passa le sue serate in un fumoso bar torinese a Legge, dove incontra uno strano personaggio da un punto di vista fisico, una persona di età molto avanzata, con un cappotto con un collo di astrakhan spelacchiato, ha delle mani ossute, fuma parecchio, sputa parecchio. E con l'intervista a Luca Zingaretti termina la seconda edizione di Italia in Controluce. L'archivio delle puntate sul nostro sito radio24.it, il blog anche sul sito Radio 24 Italia in Controluce, Facebook, in Controluce Twitter, mail controluce@radio24.it. La mia voce torna lunedì 7 febbraio 6:30, naturalmente su Radio 24.